fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo tornati in diretta e siamo tornati con i festeggiati, con i veri protagonisti della nostra, delle nostre serate, pardon, e delle nostre feste. Allora, abbiamo avuto spose finora e finalmente abbiamo anche degli ometti, perché insomma chiariamo che non è che siamo, sì, diciamo che apprezziamo un po' di più le donne, diciamolo nella verità, però non è che siamo fissi e chiusi solamente ad ospitare donne, assolutamente no, diamo spazio a tutti come è giusto che sia, anche perché questo ragazzo, voi non lo potete vedere essendo in radio, porta con sé uno dei messaggi e dei miti da sfatare oppure no, dobbiamo capirlo, del matrimonio, e adesso vi farò capire il motivo. Intanto dici un po' come ti chiami? Alessandro. Alessandro, benvenuto, da dove vieni? Da Trento. Da Trento, io mi sono già giocato la carta, mi spiace, ma non ho potuto controllare la lingua. Volevo chiederti appunto qual era il motivo della tua festa, l'abbiamo già capito, ma ricordacelo tu. Dio celibato. Oh, ok, e chi è a questo punto la tua futura moglie? Non so se chiamarla fortunata, no, insomma, grazie. Un tesoro, non lo so, quello che è. Fortunata per forza. Fortunata Francesca. Per forza. Francesca, spiegaci il motivo del, come dire, del perché stiamo giocando un po' sul suo ruolo e sul tuo vestito, la tua presentazione qui. Ah, oggi mi hanno vestito da carcerato per sottolineare il fatto che sarà un carcere d'ora in poi. Ma come mai? Come ma mai? Non la conoscono, dai, è buona. Ah, è buona? Sì, è buona. Allora c'è da capire come mai hanno deciso di... Per fare un po' di casino. Ah, ok. Era ironica, dai, non era vuol dire volontaria, ecco, no. diciamo così. Però c'è un po' questo mito, no? Del matrimonio, la tomba dell'amore, sai, come questi detti che si porta dietro da tanti anni. Cosa vuoi fare? Vuoi tentare ai microfoni di Resto Radio Convento di difendere il matrimonio? No, lo lascio fare al mio fratello. Ah sì, a tuo fratello? Sì, preparato. È più preparato. No, cosa dicono? Posso dire che è un inferno invece di noi. È un inferno? È l'opposto. Non è la verità quello che dice. Ok, quindi confermi che deve. Cioè, nel senso, questo, metaforicamente. Sta portando addosso. È quello giusto. Metaforicamente non se lo toglierà più. Dici così. Confermiamo tutti. Confermate tutti. E come mai? Come mai? Dici un po'. È un inferno? Perché bisogna comprare l'abito nuovo. Ma solo per quello. Solo per quello. Guarda che però ti dirò che l'uomo è abbastanza fortunato perché più o meno può riciclare. O comunque sia. Riutilizzare qualcosina. La donna è fregata perché se si presenta a lavoro in ufficio con l'abito della cerimonia, forse la guardano male. Se te lo metti tu a una festa, insomma, qualcosa di importante, comunque passi. E la donna è sì, diciamo che proprio la donna lo appende, sai come chi è Maldini, tu i giocatori che appendono la maglia al chiodo. Sì, loro appendono. O Zanetti, chiunque sia. Però appendono il vestito al chiodo e basta, se lo passano ogni quanto lo guardano e noi invece possiamo. E come mai dici che è un carcere ma solo per l'acquisto dell'abito? Esatto. Quindi io farei parlare del fratello che... Ancora, il messia, il messaggero, il messaggero divino, è l'oracolo. Il mio cugino altro della famiglia. No, fratello e cugino, bene. Ma siete solo voi quattro stasera? No. Ah, ok. Sono parte del gruppo. Sì. Però fratello non c'è sposto. No, cosa posso dire? È la verità. Così è, ormai basta, non si vede più. È andato a convivere con l'amorosa da 2 anni. Ah, per questo, per questo. No, voi pensate, è andato a convivere con l'amorosa da 2 anni. Quante volte sono arrivato a casa sua? Indovina, spara un numero. Non lo so. 10 2 e una per dirci che si era sposato. Esatto, quindi cioè è un carcere, quindi no? Beh, allora aspetta, dobbiamo girare la cosa. Cosa? Sanno dove abito. Sì. Quindi basta suonare, citofonare, basta presentarsi. Ah, ok, quindi no, perché a questo punto c'è da capire se sia davvero un carcere o magari anche a lui sia passata la voglia di uscire, perché qui si gira la frittata, No, se lui passa la voglia di uscire, quindi vuol dire che si trasforma in un carcere. E quindi c'è una motivazione che lo porta ad essere così. Sta diventando una puntata di Marzullo, un pochino. Però no, seguo il ragionamento. Seguo il ragionamento. Sì, però aspetta, attenzione, ripeto. È un carcere se ti viene imposto dall'altra parte che tu non puoi uscire. Se tu già per primo non hai voce, cioè, magari viene imposto in modo incondizionato. Ah, incondizionato. Ma così nessuno di voi è sposato, quindi immagino, no? Vedi, c'era qualcosa che mi mi faceva capire che amico, difenditi di qualcosa. Prova a difendersi. Oggi è 3-1 e ammetti la sconfitta. Questa volta hanno ragione loro. E allora facciamo così, dici come mai tu hai deciso di andare controcorrente rispetto ai tuoi amici e di fare questo passo. Importante, è un passaggio importante, c'ho 30 anni, cosa devo fare? Devo sposarmi. Vabbè, non è per metà anagrafica che ci si sposa, ci per convinzione. Ah, dici? Devi sposarti a un certo punto, sì, ci sta, come cosa? Ci sta, ok, bene. No, la mia paura è che sia più per un discorso anagrafico. Ma no, figurati. Infatti scherziamo. Scherziamo. Sotto il romanticone lui. Sì? Romanticone. Tipo, fammi un esempio. Vai, fratello. Ormai il fratello è la voce del popolo, è la voce di tutti. È l'organizzatore della serata. Vai, fate. Se si può dire. Spara. Come proposta, si può la dire. Proposta, infatti io andavo su quel piano lì. Se lui acconsente. Tu considera, si sposano fra 2 settimane, tre? Tre settimane. C'è gente, io ho ricevuto l'invito 3 giorni fa. Ah, però. Lui deve stare cucina. Sì, ancora deve saperlo. No, è stato il primo a ricevere l'invito. Esatto. Cioè, diciamo, sono organizzati per tempo. Però adesso specifichiamo com'è l'invito. Il classico invito, avete presente, no? Il classico biglietto. Sì, posta da lì. Invece no. Oh, va considerato che gliel'ha chiesto nel Central Park di New York. Però insomma si è organizzato, esatto. Perché, il primo pick che ha visto insieme era Central Park di New York. Davvero? Sì, c'è romanticismo. Sei un grande. Il biglietto. No, aspetta, però domanda: il viaggio a New York era pianificato comunque e tu ne hai approfittato per? Era pianificato comunque. Ok, non è stato pensato per la proposta, no? Ok. Però il biglietto d'invito per il matrimonio è stato formato su un biglietto, invece che il classico, appunto, come dicevo, in orizzontale, fatto in scala in base alla grandezza del Central Park. Okay. Oddio, aspetta, mi sono perso, stato cioè? Fatto in scala. Sì? Funzionato in versione più piccola, che sì? Ha 10 cm. Cos'è Central Park? Cos'è, 8 km mi pare? 4 km. Esatto. È un mondo intero. E siccome gli ha chiesto su una scala, su una panchina. Sì? La panchina è stata posizionata direttamente sul punto esatto. Sì? Basato sempre in scala. Non ci credo. Quindi è una mappa anche. Ah, è anche una mappa, è incredibile. È un lavorone, è un grande, un lavorone. E tra l'altro caso vuole che tu nella vita faccia. Io faccio il grafico. Vedi, quindi diciamo che. Insomma, sa quello che dice, sa quello di cui parla. Bene, avete fatto altri viaggi altrettanto interessanti o è stata questa estemporanea e basta? Abbiamo fatto altri viaggi, adesso stiamo programmando il viaggio di nozze. Dove? In Giappone. Sì. Che non ha nulla a che fare con New York. Non ha nulla a che fare, cioè, con nel senso, New York. Completamente un'altra cultura, un'altra cultura, visita. L'idea è vedere una cultura completamente diversa. Però, vi piace, insomma, spingervi più in là del normale, ecco, diciamo così. Bene, bravi. Spero che comunque, come dire, ci sia un chiarimento tra virgolette da parte vostra, vedremo. Che troviate comunque un accordo, perché vedremo. Sembra che abbiamo 3 settimane per arrivare. Esatto, perché diciamo magari che magari al giorno del matrimonio, quando ci sarà una fatidica frase, sì, sì, qualcuno protesterà, dici. Esatto. Magari qualcuno di noi dirà qualcosa. Sembra arriveremo all'altare tutti quanti così, sì. con le mani nette alla Mourinho. Dicevo che sembra un po' una discussione da Parlamento, no? Sai, quando io propongo la mia legge, lui propone l'altra e poi piano ci si avvicina, dai, io ti concedo questo, ti concedo l'altro e poi si trova un punto d'incontro. Quindi speriamo che in queste 3 settimane riusciate a trovare un qualcosa che soddisfi tutti. Tu però, da parte tua, devi insomma cercare di scaldarli, invitarli di più. No, ma al di là di invitarli, cioè, insomma, di renderti ancora disponibile, perché sennò se loro non ti vedono più, hanno anche un po' di ragione, no? Hanno anche un po' di ragione, anche perché non puoi più dire adesso che trascuri cioè rischi di trascurare la tua ragazza, perché insomma sono 24 ore al giorno, 7 su 7, per cui un po' di spazio anche per loro, direi che ci sta. Quindi è anche comunque parte del tuo impegno, ecco, riuscire a farli ricredere, anche perché poi chissà mai che l'anno prossimo li si sposano tutti e tre, che ne so. Ah, tu che raggio ha col prossimo anno? Ah, lui è già organizzato. Però considera che lui è il moroso di lei, di beh, andiamo bene. Tanto, esatto, si scoprono gli altarini, si scopre che il cugino in realtà è donna, è cugina. Il cugino ha una sorella. Ah, ok. Bravo. No, ancora presto, ragazzi. Ma sei tu il prossimo, Giacomo? Lui è giovane. È giovane. No. 24 quest'anno, quest'anno contro i 30, quindi non c'è partita. Esatto, è presto. Esatto. Non conta l'età anagrafica, è lui il prossimo. Anni fa, 20 anni, erano sposati. Sì, beh, diciamo che dal punto di vista statistico, se è l'unico dei tre impegnato, ha più probabilità, insomma, in questo momento. È probabile. Statisticamente parlando. Statisticamente. No, non lo so. Da come parlavate intuito che foste single, esatto. Quindi diciamo che statisticamente la percentuale più alta c'era lui. Poi la vita non si sa mai come va. Va bene, allora grazie ragazzi di essere stato con noi. Alessandro, vuoi approfittare e dire ancora qualcosa, salutare qualcuno? Vabbè, saluto tutti, Francesca in particolare. Le persone che organizzano io la festa. Io saluto tutti tranne che Francesca. C'è amore, mi piace questo bel rapporto d'amore. No, ci sta. Va bene, grazie mille allora a voi ragazzi e buon divertimento, buona serata e ancora auguri al nostro Alessandro. Ciao! Ciao.